Uno spettacolo che vogliamo segnalare è Leggenda del pescatore che non sapeva nuotare al Teatro Studio 1 dal 30 marzo fino al 9 aprile. Ne parliamo con Agnese Fallongo. Ci sei, Agnese? Sì, ciao a tutti, buongiorno. Ciao, ciao. Allora, questo titolo un po' lungo. Allora, e per chi ci ascolta, raccontiamo per sommi capi di cosa si tratta. Sì, in breve, io per 2 anni, stando in giro insomma per l'Italia, la nostra terra che ha dei posti meravigliosi, quindi paesini, borghi piccolissimi anche, soprattutto nel sud Italia, ho intervistato tante persone, soprattutto anziani, che hanno vissuto nei primi anni 40, quindi che hanno vissuto anche la Seconda Guerra Mondiale, e mi sono fatta raccontare le loro storie, quindi ho unito poi le loro storie di vita a delle leggende popolari legate ai luoghi, e questo ha creato questo spettacolo un po' magico che è tra la realtà e la leggenda popolare, insomma, con anche dei canti, quindi dei canti popolari specifici dei singoli luoghi, e credo che ognuno poi si possa rispecchiare nei vari personaggi, ecco, se così vogliamo dire. Quanti sarete in scena? Siamo 4 attori, tra l'altro proveniamo tutti da parti d'Italia differenti, non a caso infatti ognuno reciterà nel suo dialetto. Siamo 2 uomini, 2 donne, e c'è Calabria, Sicilia, Lazio e Campania, quindi insomma raccogliamo una bella fetta d'Italia. Senti, per questa ricerca è ripartita proprio con l'idea di realizzarne uno spettacolo, sono interviste che hai raccolto a prescindere? No, in realtà devo dire che è una cosa che ha sorpreso anche me, l'ho fatto un po' per gioco, era un momento di vita mia molto particolare, ero ritornata in Italia dall'estero dopo insomma un po' di tempo, e queste interviste le ho fatte veramente con amore, semplicemente per la gioia di ascoltare queste storie, e poi dopo è arrivata l'urgenza dello spettacolo legata al fatto che ho pensato che valeva la pena di ascoltarle e di farle ascoltare anche agli altri. Quindi le ho volute teatralizzare proprio per questo motivo, perché c'è una saggezza dietro e una verità detta in un modo così semplice che è quasi disarmante, e a me ha toccato il cuore, e quindi ho pensato che potesse insomma interessare anche gli altri. Da che aree geografiche dell'Italia provengono queste persone o le storie che hai raccolto? Sì, ecco, allora parlano nello specifico di Palermo, quindi Sicilia, in un paesino della Calabria che si chiama Marina di Gioiosa Ionica, e poi di Napoli, e parlano di Roma. Ho preferito diciamo scegliere poi, cioè ambientarli poi in una città abbastanza conosciuta, perché insomma ci si potessero rispecchiare più persone, ecco. Però sono storie proprio che cioè delle persone vere che me le hanno raccontate, io non ho fatto altro che romanzarle e metterle in forma, sotto forma teatrale, ecco. E poi c'è l'elemento musicale che è molto interessante, perché diciamo che entra quasi come fosse drammaturgia stessa anch'esso, ovvero non è solo un virtuosismo come appunto può avvenire in musical, come siamo abituati in Italia, no? Sì. Abbiamo anche una tradizione teatrale di operetta, di musical, insomma. Però invece entra in un modo, come posso dire, drammaturgico, nel senso per sostenere quello che sta raccontando in quel momento il personaggio, in un modo viscerale, come sono poi i canti popolari, come può accadere appunto in una serenata. Sono talmente innamorato che invece di dirti a parole il mio amore, arrivo a cantarlo, perché poi il canto è più immediato, parliamo di un'arte universale che tocca tantissimo insomma le persone, no? In un modo quasi più immediato a volte della parola, e quindi in questo senso c'è anche questo lato a mio avviso molto suggestivo, anche perché i ragazzi suonano e cantano tutti, quindi ci saranno diversi canti polifonici e l'utilizzo di diversi strumenti, chitarre, percussioni e altro. Senti, è uno spettacolo che nasce da una residenza? Sì, in realtà io praticamente dopo aver raccolto queste interviste ho scelto proprio, ho chiesto a queste persone che sono miei colleghi, che stimo tantissimo, ormai anche miei amici, e poi ho scritto i pezzi anche su di loro, quindi unendo sia, cioè ho scelto proprio degli attori che secondo me potessero potevano essere insomma ad hoc per questo progetto, e dopo quindi abbiamo fatto prima una residenza in questo posto bellissimo ad Ortona dei Marsi, che sta vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo, e l'abbiamo anche rappresentato davanti alle persone del paese. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto. Devo dire che è uno spettacolo che raccoglie il consenso sia degli addetti ai lavori che delle persone assolutamente semplici, anche perché io poi le persone che ho intervistato, la maggior parte nessuno è mai andato a teatro, quindi gente anche molto terra terra, ecco, se così vogliamo dire, e vedo che è una cosa che parla a tutti, quindi comunque perdonami, sto divagando. Sì, abbiamo iniziato da questi no, perché poi se io farlo essendo una cosa che mi appassiona, certo. Abbiamo iniziato da questa residenza, poi abbiamo vinto diversi concorsi sia al Teatro dell'Orologio che al Teatro Studio 1, e adesso insomma siamo pronti a debuttare appunto dal 30 marzo al 9 aprile al Teatro Studio 1 di Roma. Bene. Un'ultima curiosità, la connessione tra musica e testo, su cosa avete lavorato, su quali anche memorie storiche? Allora, io a parte che ho chiesto proprio anche nelle interviste alle persone se si ricordavano un canto, una filastrocca, un qualcosa che le toccasse profondamente, quindi molti sono stati suggeriti proprio dalle persone stesse. Altro, ho fatto io una ricerca rispetto anche alla scrittura che poteva essere ad hoc in quel momento per, diciamo, aumentare la temperatura drammatica della scena, o insomma per sostenere a seconda delle varie situazioni. Però abbiamo fatto proprio un lavoro di canto polifonico. Ci sono dei momenti in cui il personaggio canta singolarmente, però la maggior parte delle volte sono tutti canti polifonici legati a musiche popolari, appunto proprio dei primi del Novecento, anche della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro anche di studio da quel punto di vista. Per esempio, nel monologo, nel pezzo della Sicilia, con l'arrivo degli americani c'è anche in un certo senso l'arrivo dello swing, quindi queste prime sonorità assolutamente nuove, no? Sì. E quindi abbiamo cercato di far sentire anche un po' dal punto di vista musicale questa diversità. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo la nostra pagina Facebook, La Leggenda del Pescatore che non sapeva nuotare, quindi potete seguire lì tutte le nostre attività. E inoltre vi aspettiamo dal giovedì alla domenica, dal 30 marzo al 9 aprile, al Teatro Studio 1 di Roma, alle 9 di sera, tranne la domenica che invece è pomeridiana, quindi alle 18. Benissimo. Allora Agnese, un abbraccio, ci si vede a teatro. Va benissimo, un abbraccio anche a te. Ciao. Buona giornata, ciao.